scusa che è entrato con la macchina dentro al buffet, ma lui non si dà per vinto, non si arrende, è matto, non ha voglia di resistere alla sua pazzia, nel suo comodo rifugio si giustifica, non mi fate lavorare, non sopporto alcuna critica. Non ha fatto il militare, è rimasto qui, non sopportava di dire signor sì, ma lui viaggia con la mente, gli sembra di volare, viaggia dentro. Se gli piace così, questo mondo gli fa orrore e lo evita, lui si imbosca sotto il letto e non si pente mai. Fanno giri di parole per confonderlo, non è facile fregarli, sono subdoli, ma con qualche stravaganza li costringerà a rinunciare. Guardarsi attorno, ma che differenza c'è se nel buio se tutti si cercano e non si trovano, non si trovano mai. Sulla scheda elettorale ci disegna donne nude con il seno sempre sodo, non gli va di giudicare, è un libero. No, non corre, non si affanna, non ingrassa, lui è un pazzo, non si presta a questo gioco, non gli va di fare il pollo, è un matto, ma non un grullo. Gli hanno tolto il passaporto perché non è il caso di lasciare andare in giro uno come lui, ma lui viaggia con la mente, gli sembra di volare, viaggia dentro. Matto sarà chi non capisce la pazzia, chi non aver saputo guardarsi attorno.